Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, chiedo subito scusa per il raffreddore, ma andiamo con i temi di questa giornata economico-finanziaria. Resta sul banco la Fiat e i rapporti con Confindustria. Cercheremo di capire, ripeto, al di là di come uno la possa pensare, se è vero quello che in qualche modo ha sostenuto Sergio Marchionne, cioè che gli accordi firmati il 28 giugno e poi ratificati 2 settimane fa tra Confindustria e sindacati mettono a rischio, lasciano una zona d'ombra sulla la possibilità di ricorsi nei confronti delle vertenze Pomignano d'Arco soprattutto, ma anche Mirafiori, e quindi la celebro la Fiat in una area di incertezza, oppure se, come sostiene Emma Marcegaglia, in realtà gli accordi firmati tra Confindustria e sindacati non vanno a minare e a rendere meno efficace l'articolo 8 previsto nella legge finanziaria che stabilisce che l'accordo aziendale possa derogare, cioè essere diverso rispetto sia all'accordo nazionale ma anche alla legge nazionale. Questo per quello che riguarda Fiat e Confindustria. Parleremo però anche, visto che sarà il nostro ospite, di un'altra azienda che esce da Confindustria, le cartiere Pigna, e cerchiamo di capire perché, se vi siano elementi e riflessioni analoghe a quelle di Sergio Marchionne. E poi, per quello che riguarda l'Europa, adesso vi racconterò, già il nostro Gerella ha fatto alcune dichiarazioni di Trichet, Jean-Claude Trichet, suo ultimo intervento come Presidente della Banca Centrale Europea dell'Europarlamento, e però anche quelle del Ministro Tremonti al vertice Ecofin. Perché? Perché Tremonti ha detto ci sono banche in Europa che sono a rischio, e poi ha fatto anche un passaggio sulla Spagna. Li ascolteremo nel corso del programma. Infine, gli indignados da un lato e la situazione economica, tornerà alle 18.15 il nostro mitico Giulio Sapelli per capire che cosa stia montando a Wall Street e alla fine di tutto a che punto si sia di questo interminabile guado in questa crisi finanziaria che, ricordo sempre l'espressione di Giulio Tremonti, assomiglia a un videogame: ha battuto un mostro, se ne crea un altro. Oggi non ci sono mostri nuovi rispetto ai mostri grandi, c'è però un ennesimo mostriciattolo, vogliamo chiamarlo, e si chiama Dexia. Dexia è un colosso assicurativo franco-belga che sta letteralmente crollando in borsa, ha perso oltre il 30%, perché rischia lo smantellamento. Il governo belga ha annunciato che questa sera alle 20 vi sarà un incontro d'emergenza per capire come salvare il colosso bancario Dexia, perché questo per vari motivi, tra cui la Grecia. Il 40% di quello che Dexia ha in portafoglio si chiama Grecia. E ricordo che la banca è nata nel 96, ma insomma ne parleremo più avanti, anche perché Dexia già era finita nel calderone della vicenda Madoff. Ricorderete il truffatore americano che ha, con una classica catena di Sant'Antonio, fregato migliaia di risparmiatori importanti e non importanti. Comunque, i governi francese e il governo belga hanno tuttora una partecipazione vicina al 6% a testa, quindi quasi il 12% di Dexia, e stanno obiettivamente cercando di salvare il gruppo bancario. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la borsa, meno 1,85% in questo momento Milano, meno 1,90 Parigi, meno 2,30 Francoforte, meno 2,40 Londra. Ad essere penalizzata oggi di nuovo soprattutto Fiat, perde 7,70 Industrial, quindi camion e trattori, e perde il 6,41% Fiat Auto. sono i due peggiori titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione. Poi c'è Buzzunice, meno 6,30, 6% il calo di Exor, il 5,80 quello di Azimuth, il 5,50 quello della Popolare di Milano e il 5,20 lo perde anche Intesa San Paolo. Monte dei Paschi meno 5%, Saipem meno 4,20, Mediaset meno 4,20, Mediolanum meno 4, Pirelli meno 3,90, Luxottica meno 3,5 come Finmeccanica. Tra i bancari segnaliamo Unicredit che perde il 3,50% ed è di nuovo a 75 centesimi di euro, così come Banca Intesa è di nuovo a 1,11 euro. E ancora tra chi va bene invece Impregilo più 3,35, Telecom più 1,5, Autogrill più 0,60 e anche Eni leggermente positiva dello 0,15%. Ancora per quello che riguarda l'oro e il petrolio continua a calare, $75,50, quasi il 3% di calo oggi. In rialzo invece l'oro, $1,672. L'euro a quota 1,3285, ancora per quello che riguarda l'America, come avrete letto ieri è arrivato in serata anche il sostegno del finanziere americano di origine ungherese George Soros, quello che tra l'altro a suo tempo speculando contro la lira e la sterlina le cacciò dallo SME, ricorderete, nel 92-93. Ebbene, ha detto Soros, gli indignados, cioè le migliaia di persone che stanno protestando davanti a Wall Street, hanno il mio sostegno. Adesso l'Italia, una notizia che obiettivamente devo ringraziare gli ascoltatori perché ce l'hanno fatta girare e hanno ragione nel dire che era passata un po' inosservata in generale, e cioè si parla spesso dei costi della politica, la casta. Allora, sentite un po' questa. Il 21 settembre del 2010 il deputato dell'Italia dei Valori Antonio Borghesi propone l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari, ossia i parlamentari dopo solo 5 anni di legislatura hanno diritto a un vitalizio che vale praticamente di 3.000 euro al mese e vale anche per le vedove, tant'è che cita nel suo intervento il deputato la vedova di un parlamentare che non ha mai messo piede materialmente in Parlamento eppure percepisce un assegno di reversibilità. E nella sua tesi dice, insomma, per le persone normali ci vogliono 40 anni di contributi per avere una pensione, non è accettabile che un parlamentare dopo 5 anni si pigli 3.000 euro al mese. E su questo mi sembra che potremmo essere tutti d'accordo, no? Allora, ecco com'è finita la votazione. Presenti 525 deputati, votanti 520, quindi 5 astenuti, hanno votato sì, cioè per l'abolizione del vitalizio, 22 parlamentari. Hanno votato no 498 parlamentari. Faccio velocemente a leggervi i nomi di chi, con un moto di coscienza, a mio avviso, ha votato a favore dell'abolizione del vitalizio. 5 anni di Parlamento per prendere 3.000 euro al mese per il resto della vita. Allora, i 22 con un po' di coscienza sono Barbato, Borghesi, Camburzano, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Donati, Evangelisti, Favia, Formisano, Agnello, Messina, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera. E io pago! E il contrasto con quanto è avvenuto in Danimarca è netto, oltre che costare molto molto di meno la politica in Danimarca, ha anche una capacità di rinnovarsi leggermente più forte. Ieri sono arrivati dalla regina per giurare, c'è il nuovo governo in Danimarca, sono arrivati In bicicletta 6 dei 23 ministri, in bicicletta, ve li immaginate qua? In bicicletta. E ha firmato il primo ministro, il nuovo primo ministro danese, che è una donna, la leader socialdemocratica Helle Thorning-Schmidt. Dunque, si è presentata ieri a Sua Maestà, perché giura davanti alla regina. È a capo di 23 ministri, la cui età media è 43 anni, con poca esperienza parlamentare e politica. Il più giovane, Thor Morgan Pedersen, ha 26 anni e, pensate, ha 26 anni e dirigerà il Ministero per il Fisco, quello che dovrà applicare la riforma fiscale. Un'altra giovanissima è la ministro, o il ministro della Sanità, Astrid Krag, 28 anni. Allora, mi sembra incredibile notare come in Danimarca si possa avere un governo di persone così giovani, mentre da noi i deputati, quando devono votare l'abolizione del, sì lo so, è populismo, scrivono alcuni, l'abolizione della signora vitalizio con 3.000 euro al mese, solo 22 su 525 presenti hanno detto sì, 3.000 euro al mese per 5 anni di Parlamento è un po' tantino. Città, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Arriveremo anche a Dexia, quello che ha detto Trichet e Tremonti, soprattutto, che ha detto una frase che noi sosteniamo da tempo. Ha detto: attenzione, gli spread in Spagna e quindi la misurazione del rischio spagnolo si sono abbassati quando la Spagna ha indetto nuove elezioni. Cosa che diciamo da mesi, l'Italia e la Spagna, l'Italia l'ha messa molto meglio della Spagna fino a metà giugno, finché il governo, la maggioranza non ha perso le amministrative e non ha perso anche il referendum, e da lì è partito il rialzo degli spread, dei CDS e tutti gli indicatori sul nostro rischio. Che oggi per inciso sono tornati a 385 punti. Tremonti ha detto: beh, la Spagna ha spread meno alti dei nostri anche perché ha indetto nuove elezioni. Ecco un modo per abbassare gli spread, per esempio. E ha detto: attenzione, ci sono banche a rischio anche nel resto d'Europa. E poi la Fiat il giorno dopo lo strappo. Strappo che, quando siamo andati in diretta ieri, era ancora nell'aria. Poi, dopo che è intervenuto la presidente di Confindustria Marcegaglia ieri sera a Bergamo, è stato netto. Ha detto: non sono d'accordo, le ragioni di Sergio Marchionne non sono credibili. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Professor Carlo Della Ringa, che insegna economia politica all'Università di Milano, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Ex commissario straordinario dell'ISFOL, e poi sentiremo anche un altro industriale che vuole uscire da Confindustria. Comunque, mi dica una cosa, professor Della Ringa, tanto in questo momento non capiamo se ha ragione Marchionne, gliela dico molto brutalmente, che dice: gli accordi firmati tra Confindustria e sindacati minano le certezze per me nelle fabbriche di Pomigliano, mi espongono ai ricorsi verso la magistratura, minano l'articolo 8 della legge finanziaria, quella di un mese fa, che invece è molto chiaro sul fatto che il contratto aziendale possa derogare anche alla legge nazionale, al contratto nazionale. Emma Marcegaglia invece ha risposto: no, non è vero, ci siamo informati, non c'è, gli accordi presi tra noi e i sindacati non vanno a minare l'articolo 8 del governo, e ha ribadito e rivendicato il fatto che la Confindustria rappresenti migliaia di imprese, anche migliaia di imprese del settore metalmeccanico, e quindi non si possa fare, diciamo, l'accordo solo per la Fiat. La sua posizione? Ma io ritengo che la Confindustria abbia raggiunto risultati che lo stesso Marchionne riconosce, cioè questi accordi sono stati firmati anche dalla CGIL dopo 10 anni che la CGIL non firmava più nulla. Questo il 28 giugno e poi ribadito il 21 settembre. E con l'articolo 8, quello che non è stato messo in discussione certamente né da Confindustria né dalla CISL, che è la possibilità di applicare questi contratti erga omnes, cioè a tutti i lavoratori, una volta che sono stati firmati dalla maggioranza dei sindacati. Quindi questo, diciamo così, mette a posto gli accordi che ha fatto Marchionne. Li ha fatti, valgono per tutti, quindi su questo non ci può essere discussione, secondo me. Altra cosa, invece, il famoso articolo 8, che dà la possibilità a livello aziendale di riformare la legislazione del lavoro, compreso l'articolo 18. Ora, non è che in questo accordo del 21 settembre abbiano potuto negare una legge, cosa che non potevano fare. Però hanno detto che prima di affrontare modifiche radicali della legislazione devono un pochettino discutere, confrontarsi fra di loro e assumere le decisioni conseguenti. Ecco, per Marchionne questa posizione è stata troppo prudente. Cioè, lui si aspettava che tutti dicessero l'articolo 18 va benissimo e quindi va applicato. Con il particolare, peraltro, che la CGIL è pronta a fare le barricate e la stessa CISA ha detto che l'articolo 18 non lo vuole cambiare. A questo punto cosa poteva fare la Confindustria? Ritornare a fare la guerra? No, io penso che abbia fatto bene a firmare quell'accordo lì che mette a posto i contratti di Marchionne e che sulle modifiche della legislazione ci sarà bisogno di un confronto. Dopodiché, azienda per azienda, se si mettono d'accordo a cambiare anche l'articolo 18 lo possono fare in base alla legge, nessuno lo vieta. Allora, lei dice, se ho ben capito, professor Della Ringa, che da un lato, avendo CGIL e CISL contrarie all'articolo 18, al fatto che ricorderete l'articolo 18, quello che permette il licenziamento solo per giusta causa, diciamo. Essendo contrarie a toccare quella cosa lì, se la Confindustria voleva trovare un accordo con i sindacati su un nuovo modello di relazioni industriali che desse più potere al contratto delle aziende e desse anche alcuni elementi, come per esempio il fatto che se un contratto viene firmato dalla maggioranza dei rappresentanti sindacali non può poi essere messo in discussione da scioperi o dalla minoranza che ha perso, diciamo, tutto un insieme di elementi anche importanti. Se voleva firmare un accordo non poteva infilarci dentro anche l'articolo 18, perché avrebbe visto il no della CGIL ma anche quello della CISL, e quindi ha fatto il miglior accordo tra quelli possibili, se ho ben capito quello che dice lei. Esattamente. Anche perché, e qui aggiungo io, Confindustria, che è il nostro editore, lo sappiamo benissimo, sì. Che è il mio editore, insomma, proprietario del Sole 24 Ore per buona parte, però Confindustria rappresenta non solo la Fiat. E allora qui dobbiamo metterci d'accordo, perché prima, quando la Fiat dominava in Confindustria, la Confindustria era solo la Fiat e la Fiat era il padrone di Confindustria. Se Confindustria poi fa un accordo in cui tiene presente anche il fatto che se tu sei un imprenditore metalmeccanico e hai 70 dipendenti, non è che puoi delocalizzare come fa Marchionne in Polonia o in Brasile in un secondo. Devi andare a un accordo con le rappresentanti sindacali di quel posto lì. E se ce li hai tutti contro non firmi nessun accordo. E lei poi aggiunge, se ho ben capito, tanto Marchionne poteva comunque applicare l'articolo 8 della finanziaria per le vicende sue, capito bene? Certamente, se lui trova a livello aziendale dei sindacati CGIL, CISL o la maggioranza dei sindacati che vogliono modificare l'articolo 18, cioè questa maggior facilità di licenziamento, lo può fare, la legge glielo permette, solo che i sindacati nazionali, sia CGIL e CISL, hanno detto che faranno di tutto perché questo non avvenga. Mi sembra che sia nel normale, diciamo così, antagonismo fisiologico, antagonismo tra le parti sociali. Poi, se mi permette, c'è sotto sotto una cosa importante, e cioè che Confindustria e i sindacati nazionali vogliono che a livello confederale e a livello di contratto collettivo nazionale ci sia un potere di coordinamento e di guida e di indirizzo della contrattazione aziendale. Penso che sia giusto questo coordinamento. Ecco, Marchionne, probabilmente anche qualcuno come lui, vede questa ingerenza come altri paletti, altra burocrazia, e quindi vorrebbe fare come si fa in America, solo contratti aziendali. Sono tutte e due giuste le posizioni, poi uno può propendere per l'uno o per l'altra, ma certamente finché c'è la Confindustria un ruolo del contratto nazionale è inevitabile, secondo me anche giusto in questa fase delle relazioni. Se no dice lei che ci sta a fare Confindustria e i sindacati nazionali. Ma non è solo quello, anche, diciamo così, il sindacato e la Confindustria nel nostro paese ha svolto un ruolo che mediamente io considero positivo, e penso che possano svolgere un ruolo positivo anche in futuro. Coordinamento, ricordiamo quello che ne hanno fatto per cercare di debellare l'inflazione, insomma non hanno fatto solo cose negative a livello nazionale, no? In molti paesi come la Germania, la Svezia, la Danimarca, dove le relazioni sindacali sono virtuose, i sindacati nazionali hanno molto potere. Ora è giusto decentrare molto, ma un minimo di coordinamento secondo me è anche... No, lei ha messo in evidenza un bel punto Della Ringa, perché ricordiamo anche a Marchionne che in Germania, dove le auto si producono e si vendono, Ligue Metall, cioè i metalmeccanici tedeschi, sono un sindacato potente quanto un governo. Per cui, cioè, non è che negli altri paesi dove si fanno auto, si fanno buone, si vendono, siano scomparsi i sindacati. Questo Sergio Marchionne un po' se lo deve anche, se lo deve anche ficcare in testa, mettiamola così. Perché, e veniamo all'ultimo punto. Intanto c'è raggiunto anche il deputato del PDL, presidente e amministratore delegato del quartiere Pigna, onorevole Giorgio Iannone. Buonasera, onorevole. Buonasera. Allora, adesso arrivo anche da lei. Però vorrei concludere con Carlo, con il professor Carlo Della Ringa. Perché se, diciamo, Marchionne poteva utilizzare l'articolo 8 per le sue imprese, per la sua gestione di Pomigliano, Mirafiori e quant'altro, e allo stesso tempo poteva anche lasciare, lei dice, poteva non uscire da Confindustria e poi rivolgersi all'articolo 8 per le cose che, per le garanzie che lui chiede, secondo lei alla fine perché è uscito? No, no, appunto è un'azione di protesta, è un'azione di protesta. Infatti lui esce per questa posizione troppo prudente dell'associazione che lo rappresenta. È tutto qua. Non si sente rappresentato, non perché uscendo possa fare delle cose in più di quello che può fare adesso, perché, ripeto, se a livello aziendale lui trovava dei sindacati maggioritari disposti a riformare l'articolo 18, l'avrebbe fatto. Non è che adesso possa farlo, diciamo così, autonomamente. Cioè lei dice che cosa, al di là del gesto simbolico, dello schiaffo, della... No, non ci ha guadagnato molto. Non lei dice a questo punto, comunque, quando vorrà attuare l'articolo 8 a Pomigliano, dovrà avere la maggioranza, dovrà avere la maggioranza dei rappresentanti sindacali, che dubito possa avere se CIS e CGL sono contrarie. No, può anche escludere la FIOM, ma dal momento che anche la CIS ha detto che non voterà questa cosa qui, anche con sindacati amici dovrà combattere non poco. E quindi non si capisce il mani libere per che cosa. Molti sostengono che questo sia per trovare poi il caso, diciamo, di scuola, il caso di scontro, il casus belli, per poi dire bene, non si può investire in questo paese e quindi rinunciare al progetto Fabbrica Italia, ai 20 miliardi promessi di investimenti in Fabbrica Italia, e citano a sostegno di questa tesi il fatto che sul famoso SUV a Mirafiori, la Camus oggi, ce l'abbiamo la Camus che dice il SUV è entrato e uscito da Mirafiori, eccola lì, la fate sentire per favore, perché ha detto una frase che a mio avviso la leader della CGIL è incredibile. La proposta di far fabbricare un SUV a Mirafiori, una volta c'è, poi scompare, poi non c'è, poi scompare. Insomma, anche Marchionne un po' di chiarezza. Camusso. La scelta di uscire dalla Confindustria, molti dei comportamenti, è una scelta di non rispettare le regole di questo paese, le norme di questo paese. Questo è indubbio. Noi abbiamo da lungo tempo denunciato una preoccupazione sugli obiettivi effettivi della Fiat. Vorrei anche dire che però non è che ci auguriamo che la Fiat smetta di produrre in Italia, però continuiamo a non capire che cosa vuol produrre in Italia, perché Fabbrica Italia, il famoso piano annunciato, sembra sempre più una chimera, e la cosa che continuiamo a trovare grave è un governo che fa da sponda all'idea di togliere le regole e di scaricare sui lavoratori, penso appunto all'articolo 8, a tutte le cose che ci sono note, e non ha l'autorevolezza di chiedere a Fiat scusa qual è il tuo programma industriale, perché mi pare che sta diventando come il piano per il Sud. Il SUV è andato e venuto dagli stabilimenti di Mirafiori credo ormai 3 volte, mi pare un po' complicato pensare che quello sia un piano industriale. Felicità, momenti e futuro incerto. Allora, per concludere, professor Della Ringa, insomma, anche lei teme che sotto ci sia questo, ci sia... No, ma io non faccio processo alle intenzioni. Vedo certamente la Fiat in difficoltà. E può darsi che le convenga anche produrre in altri paesi, lo metto in dubbio, ecco. Mi sembra che sia troppo concentrata l'attenzione su queste cose delle relazioni sindacali. Non c'è dubbio che maggiore flessibilità andrebbe bene alla Fiat e a tante imprese, però io dico che nella ricerca di quel giusto equilibrio, ultimamente qualche passo avanti verso un maggior decentramento della contrattazione e una, diciamo così, e relazioni sindacali un po' meno conflittuali di quelli che erano 7-8 anni fa, ecco, questi risultati sono stati raggiunti. C'è ancora da fare, ma sarebbe importante che non si creassero queste fratture così forti all'interno del mondo imprenditoriale, anche perché è un po' una responsabilità questa di uscirsene, perché significa poi non dare anche il suo contributo perché le cose cambino in meglio per tutti. Allora, io ringrazio l'economista Carlo Della Ringa. Sì, lei ha detto una cosa che noi abbiamo sintetizzato con questo motto Della Ringa, e cioè va bene i modelli delle relazioni industriali, però servono anche i modelli di automobile, perché se continuiamo a parlare da un anno e mezzo solo di quanto ha le forze di avere il contratto aziendale, come si fa a licenziare, non si presentano i modelli, faccio notare che insomma, ci sono stati rinvii dal 2011 al 2012 già per la Fiat Lo 5 posti, la Fiat Lo 7 posti, la nuova Panda Van, la Lancia Cabrio, cancellata la Lancia, la nuova Sedan, per cui insomma, anche sui modelli forse Marchione dovrebbe dirci qualcosa, oltre che spiegarci sempre come si fanno le relazioni industriali. Grazie a Carlo Della Ringa, mentre all'onorevole Iannone, che poi intervisterò con più spazio dopo il metro, la pubblicità, vorrei capire su una cosa, onorevole. Lei è uscito, ha annunciato oggi che le cartiere Pigna escono dalla Confindustria. Lei l'ha fatto per gli stessi motivi di Marchionne, cioè perché teme che l'accordo con i sindacati ratificato 2 settimane fa possa inficiare l'articolo 8 della legge finanziaria, fermo restando che non ci può sempre fare riferimento, cioè hai problemi che ha Marchionne con la FIOM interna o per quale motivo? No, dunque, innanzitutto le dimensioni sono... No, vabbè, mutatis mutandis, ci mancherebbe. Che la Fiat e la Fiat, noi siamo noi molto più piccoli. Ma le motivazioni sono assolutamente differenti. Io ritengo, dal mio punto di vista, che Confindustria stia venendo meno ad uno degli obblighi statutari che ha, che è quello dell'assoluta neutralità politica. Mm. Mi sembra che stia diventando sempre di più, invece, in alcuni suoi esponenti, un partito o si esprima la volontà di creare delle posizioni politiche o partitiche, e devo dire che ieri all'Assise di Bergamo, che poi è la mia città, le faccio presente che mancavano interi partiti per proprio denotare questo distacco. Per esempio la Lega era completamente assente. Io sono un parlamentare di maggioranza e non lo nego, lo sono in trasparenza, devo dire che in molte delle posizioni assunte da Confindustria ultimamente non solo non mi riconosco, ma non capisco dove ci voglia arrivare, perché Confindustria vorrebbe rappresentare... Allora, no, ho capito, adesso dopo il metro le chiedo anche un'altra cosa. Faccio notare però che da quello che ho capito io, la linea di Confindustria, che è nata con Confindustria di Vicenza, è di non invitare più politici come relatori nei convegni, nelle assemblee, e questo capiterà anche a Capri fra 2 settimane per la prima volta, perché la linea data da Vicenza, sulla territoriale di Vicenza in poi, è se i politici vengono qui e non ci dicono nulla e non hanno decisioni da annunciare, non hanno nulla di cui parlarci, se ne stiano pure a casa. Meteo, pubblicità e poi la linea politica di Confindustria, se ho ben capito il suo taglio. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco, come sempre, commenteremo anche la borsa, pesante il finale, meno 2,70%. Per cento, Fiat meno 7,50, Fiat Auto e Fiat Industrial meno 8,5%. Vorrei però concludere l'intervista con l'onorevole Iannone. Giorgio Iannone è, oltre che onorevole del PDL, anche amministratore legato e presidente delle cartiere Pigna, è presidente della commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali ed è oggi annunciato di essere uscito da Confindustria. Lei mi ha detto: io l'ho fatto per motivi completamente diversi da quelli di Marchionne, cioè non c'entrano le relazioni industriali, c'entra la posizione politica di Confindustria. E cioè il fatto che abbia criticato il governo? Ma criticare il governo ci sta, anzi, voglio dire, sarebbe normale se fosse una critica a fine a se come succede tante volte nella storia di Confindustria. Mi pare però che ultimamente le critiche, i toni e le finalità siano diversi rispetto al passato. Mi pare che ci siano esponenti che, importanti, che annuncino più o meno formalmente entrare in politica. Mi pare che le assunzioni ormai continue, un po' retoriche, un po' reiterate, abbiano assunto un tono che non è quello di una associazione che dovrebbe essere apolitica e apartitica. Sì, apolitica e apartitica. Adesso non mi faccio difendere la Confindustria, perché visto che anche l'azionista di maggioranza del Sole 24 Ore è una posizione, diciamo, imbarazzante la mia, però io difendo, diciamo, faccio sempre il bastian contrario. Allora, ho capito essere apolitici e apartitici, però uno opera in Italia. Se al governo in questo momento ci siete voi E cioè, secondo lei sono arrivate misure per la crescita da queste leggi finanziarie? Che Confindustria ha sostenuto assieme all'ABI, all'ANIA, cioè alle banche, alle assicurazioni, agli artigiani, ai commercianti, Confesercenti, Confcommercio, che manchino iniziative di respiro, non il piccolo cabotaggio, la sopravvivenza quotidiana, per la crescita. La manovra è stata tagli e tasse. Ora lei la pensa diversamente, visto che fa anche l'imprenditore? Io posso solamente dirle che questa manovra ha salvato letteralmente il paese, e la manovra precedente ancora, e ancora prima la finanziaria fatta a luglio dal ministro Tremonti, è stata fondamentale. E l'Italia, che certamente non parte da una situazione facile con il terzo debito pubblico del mondo, comunque è una situazione migliore ad altri paesi. Uh-huh. E poi sia necessario attuare delle misure per la crescita e per lo sviluppo, uh-huh, assolutamente sì, tanto che il presidente Berlusconi ha già annunciato che nelle prossime settimane verranno varate queste misure. Ora però le critiche, ripeto, sono legittime, attese e possono anche servire ad essere di stimolo. Io stesso da imprenditore vivo questa situazione, quindi capisco che sia quantomeno normale farle, però vedi, qui non mi pare che siano solo critiche, mi pare che si vada un po' oltre. Mi pare che ma perché la Marcegaglia ieri ha detto che non farà politica. Lei quando dice imprenditori che palesemente scendono in politica, ma non di Confindustria, e di chi? Esponenti, parte presidente Montezemolo, uno che mi sembra sia particolarmente attivo nell'agone ormai politico, mi sembra che si avvalino. Sì, che però non ha una carica in Confindustria in questo momento. Viene costantemente avvallato da una serie di esponenti. Sembra quasi che il tandem comunicativo e mediatico tra il presidente attuale Marcegaglia, che pone addirittura degli ultimatum al governo, le ricordo, e le prese di posizione di Montezemolo non siano del tutto casuali. Cioè lei vede un asse Marcegaglia Montezemolo? Non un asse, ma certamente Confindustria si sta sempre più bilanciando. Senta, onorevole Iano, le faccio ancora due domande, no, perché apprezzo la sua schiettezza. Lo dico a chi la critica al 349-238-6666, uno può uscire da Confindustria per tutti i motivi, anche perché non gli piacciono i capelli della Marcegaglia, però bisogna capire poi di cosa stiamo parlando. Allora, lei dice la Confindustria è troppo antigovernativa, sta prendendo una posizione troppo antigovernativativa. Non è questo il punto, è troppo politica, potrebbe essere anche di sinistra, potrebbe anche essere completamente schierata a favore del centrodestra, deve semplicemente stare super parte. Cioè se Emma Marcegaglia avesse detto bravo Berlusconi, bravo Tremonti, lei sarebbe uscito comunque? Questa è una bella domanda, probabilmente l'avrei notato di meno personalmente. Ma dai, Iannone, per favore, dai. Se Marcegaglia avesse detto bravo governo, bravo Berlusconi, bravissimo Tremonti, lei sarebbe rimasto in Confindustria. No, certamente avrei annotato ancora una volta uno sfinanziamento eccessivo politico. Guardi che sono abbastanza schietto io. No, ma la conosco perché ci sentimmo ai tempi della riforma che lei tentò di fare sulle banche popolari, per cui io ricordo, ho una memoria lunga. Tra l'altro oggi Radio 24 festeggia il suo compleanno, perché nel 99, allora, grazie, allora, sono 12 anni. Detto questo, e torniamo all'intervista, per inciso, visto che ho aperto il programma con una nota che mi hanno girato alcuni ascoltatori di come è finita la proposta di Antonio Borghese dell'Italia dei Valori di abolire il vitalizio che permette a voi parlamentari dopo 5 anni di mandato a 60 anni di beccarvi 3.000 euro di pensione al mese, erano 525 presenti, hanno votato a favore solo 22, cioè a favore dell'abolizione, e 498 hanno votato no. Lei ha votato no, immagino, perché non è nei nomi. Io ho votato no e le dico che so che è molto difficile sostenerlo. Cioè è giusto che un parlamentare fa 5 anni di Parlamento e a 60 anni piglia 3.000 euro al mese. Vabbè. Sinceramente non vedo l'attinenza con Confindustria, ma rispondo perché è giusto rispondere. Certo. Secondo me, allora innanzitutto su questa storia di vitalizio si fa un gran parlare, ma è poco conosciuto il fatto che è un autofinanziamento da parte della Camera, cioè non incide sulle casse dello Stato. Beh, sono 150 milioni però che di euro l'anno, no? No, cosa fate? Cioè, previdenza è come se fosse una forma di assicurazione privata. Lei, per esempio, se fa un'assicurazione privata, paga e poi riceve. Lo stesso, la Camera si autosostenta il sistema previdenziale. Comunque è giusto che vengano fatti dei tagli, assolutamente. Le voglio anche dire che personalmente ho addirittura rinunciato nella prima legislatura al vitalizio. Io sono l'unico parlamentare che ha rinunciato al vero vitalizio avendo fatto solo una prima legislatura, poi ne ho fatte quattro. Quindi adesso ovviamente la situazione evidenziale è diversa. Ho capito. A proposito di tagli e di sprechi, guardi che anche Confindustria potrebbe un pochettino tagliare. Ma guardi, tutti potrebbero, anche noi. Cioè, io non è che gli sprechi li faccio sulla politica, ho sempre detto che il tema della casta, dei costi della politica, è un tema più simbolico che di conti pubblici veri e propri. È un tema simbolico, sì, però certamente. Da cinghia bisogna iniziare anche a stringere anche da parte vostra. Un'ultima domanda, e infine, senta, lei esce da Confindustria per le critiche che ha mosso Confindustria al governo, è inutile che ci giriamo attorno, non è così. Le chiedo, non ritenete di aver sbagliato qualcosa anche voi? Lei ha lodato la manovra di luglio di Tremonti, che è stata massacrata dai mercati di tutto il mondo perché spostava tutti i tagli alla spesa pubblica al 2013-2014, quando ci saranno nuove elezioni e magari non ci sarà più questa maggioranza, e quindi era un po' una presa in giro. E avete detto come maggioranza per anni che la crisi non c'era, che la crisi era già passata e che l'Italia era messa meglio. Mo, forse un po' di autocritica si può fare o no? O se qualcuno vi dice... Posso confutare le sue affermazioni, che lei è molto categorica. Allora, primo... No, sono tutte, le faccio sentire. Io Berlusconi e Tremonti ho l'archivio di questi tre anni, li faccio sentire. Berlusconi, allora, e Tremonti, primo, che dicono, guardi, l'Italia non è in crisi, le crisi siamo già usciti e siamo messi meglio di altri paesi. Prego. Allora, primo, io non sono uscito per le critiche al governo, che le ripeto, sono uscito per le prese di posizioni politiche anche a livello locale. Poi ieri è successa una cosa a livello locale, ma non voglio annoiare i vostri telespettatori che sono nazionali. Seconda, per dire, la Lega non ha partecipato, come dicevo, in nulla, in nessuna componente alla CISE, e ci deve essere pure un motivo. Mm-hmm. Secondo, non è vero che Tremonti ha sminuito la crisi, anzi Tremonti è stato il primo ministro dell'economia mondo Berlusconi, che ha fatto una finanziaria per la crisi, a luglio anziché a dicembre di due anni fa, quindi questo non è vero. Terzo, la manovra certamente, guardi, si può sempre fare di meglio. Non c'è dubbio che si potesse fare di meglio, ma occorre anche avere dei fondi, e l'Italia purtroppo di fondi non ne ha, quindi... Io ritengo in sintesi che certamente si possa e si debba fare di meglio, che manchino delle misure a sostegno dell'impresa e che si debbano trovare, ma che è troppo facile criticare tout court quello che è stato fatto, perché è davvero molto difficile governare questo paese, ma molto difficile. Su questa sua ultima affermazione, è forse l'unica affermazione su cui sono assolutamente d'accordo con lei, è molto difficile. Mi creda, ci fosse Prodi, ci fosse qualsiasi altro esponente del centro-sinistra, anche il migliore del mondo, troverebbe le stesse identiche difficoltà. Le faccio notare, nel salutare e ringraziare, le faccio notare che oggi ministro Tremonti da Bruxelles ha detto che la Spagna ha degli indicatori sul rischio del paese, pur essendo messa peggio di noi, aggiungo io, più bassi, spread e CDS, perché Zapatero ha indetto nuove elezioni. È un suggerimento, provateci anche voi, vediamo se calano gli spread. Grazie all'onorevole Iannone. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Allora, sì, fuoco e l'acqua, meno 2,72% Milano, meno 3% Francoforte, meno 2,60% Parigi, meno 2,60% anche Londra, il traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, passiamo adesso alla borsa, una risposta la do ad alcuni che scrivono: ti stai troppo politicizzando. Allora, visto che oggi compiamo 12 anni, sì, 4 ottobre 99 nasceva Radio 24, qualcuno si ricorda le puntate del governo Prodi, la legge finanziaria di Padoa-Schioppa, le critiche fatte alla manovra, a anche alcuni elementi della manovra di Vincenzo Visco? Lì non era politica. Uno osserva quello che fa il governo, e se fa il giornalista corretto, onesto, con la schiena dritta, magari sbaglia, ma dice quello che pensa e osserva quello che viene detto. Comunque, a borsa. Allora, Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Fiat Industrial meno 8,5%, Fiat meno 7,5%, Buzzi Unice meno 7,37%. Partiamo da Fiat, così chiudiamo, diciamo, l'approfondimento anche oggi della prima ora. Sì, allora, le azioni della Galassia Agnelli hanno risentito da una parte dell'andamento molto debole del comparto auto in Europa, che ha ceduto circa il 6%, e dall'altro della debolezza delle vendite di auto registrate a settembre sia in Italia sia in Brasile. Bisogna sottolineare infatti che le matricolazioni di Fiat in Italia a settembre sono scese del 3% contro un mercato in calo del 5,7%, mentre in Brasile il lingotto ha fatto peggio del mercato con una flessione di ben l'11% contro un meno 3,2% del mercato, quindi comunque le vendite continuano ad andare male anche a settembre e nei primi 9 mesi complessivi del 2011. Ancora, per quello che riguarda Dexia, ci arriviamo. La situazione è obiettivamente pesante in Francia e in Belgio, ma non ci sono notizie nuove, se non che alle 20 questa sera c'è un vertice d'emergenza proprio per il salvataggio di Dexia. L'effetto Dexia e dell'effetto Dexia, Livia Zancaner, parleremo dopo il GR. Dexia è arrivata a perdere il 30% al 49% quasi della sua esposizione, dei suoi investimenti in titoli greci e non solo, in asset greci, ma oltre a Fiat e l'effetto Dexia sulle banche ci sono altri titoli. Buzzi Unicem molto male, Impregilo molto bene, ne riparliamo dopo il GR. 349-238-666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso tornare sul tema dell'onorevole Iannone, che comunque ha avuto tutto lo spazio per spiegarci perché è uscito da Confindustria, perché appunto non ne segue, e uno ha la libertà di fare quello che vuole, non ne segue la linea di critica al governo. A chi dice: ma fate i nomi di chi ha votato la legge, di chi ha proposto la legge per abolire il vitalizio dei parlamentari da 3.000 euro al mese quando vanno a compiere 60 anni. A parte il fatto che molti promotori finanziari mi stanno facendo notare che per avere 3.000 euro al mese uno deve fare degli investimenti che a loro sono sconosciuti, io l'ho detto, la proposta è stata fatta dal deputato dell'Italia dei Valori Antonio Borghesi, 21 settembre 2010, su 525 presenti hanno votato sì all'abolizione del vitalizio in 22, e ho fatto anche i nomi, no tutti gli altri, ossia 498 persone. Vorrei continuare però con la borsa, Livia Zancaner. Allora, di Fiat abbiamo detto, immatricolazioni, ma devo dire che va male tutto il settore auto. Dexia, allora la situazione su Dexia è la seguente: il titolo ha perso anche il 30%, è molto esposto, per essere eufemistici, con la Grecia, cioè al 39% del suo portafoglio in asset greci. Complimenti, Francia e Belgio, i governi hanno il 6% ognuno, sono al 12%, si sono impegnati a fornire garanzie e stasera riunione di emergenza del governo belga. Domani, tra l'altro, Salva Danaio farà il punto, visto che molti ce lo chiedono, di quanti risparmiatori italiani abbiano le obbligazioni Dexia, Credit Coop e sui rischi che si corrono. L'ultimo collocamento fu dello scorso giugno. L'effetto in borsa, Livia. Sì, allora diciamo che sia i timori sul futuro di Dexia sia l'allarme utili lanciato dalla tedesca Deutsche Bank ha pesato sul settore, che ha perso quasi il 4% e quindi hanno chiuso in calo tutti i titoli del comparto, soprattutto le banche francesi molto esposte nei confronti della Grecia, ma anche quelle italiane. Bisogna sottolineare che gli operatori hanno appunto spiegato che le preoccupazioni riguardano soprattutto la possibilità sempre più concreta che l'esposizione delle banche al debito sovrano e la crescente chiusura dei prezzi del mercato interbancario possa provocare una nuova crisi delle banche come quella nata appunto nel 2008. Quindi a Milano le banche hanno chiuso in calo, anche BPM ha chiuso in flessione nonostante i guadagni della mattinata. La peggiore su FTSE MIB è stata Intesa San Paolo, che ha perso oltre il 6%. Ecco, tra l'altro il ministro Tremonti oggi, durante l'Ecofin, cioè il vertice dei ministri economico-finanziari europei, ha detto: attenzione, la crisi si sta estendendo anche alle banche, dopo aver ricordato che il sistema italiano è solido, ma adesso lo ascolteremo, e che vanno fatti tutti gli sforzi per evitare il fallimento della Grecia. Ancora sui titoli, male Buzzi Unicem in meno 7,27%, bene Impregilo più 2,65%, e sì che sono tutti e due nelle costruzioni. Sì, infatti, allora bisogna sottolineare che la Buzzi Unicem ha risentito del forte calo del settore del cemento in Europa. La francese Lafarge e la tedesca Heidelberg Cement hanno perso oltre il 7%. Allora, da una parte i titoli sono penalizzati dai timori sul ritorno alla recessione in Europa come reazione appunto a un possibile default della Grecia, e dall'altra hanno risentito anche del crollo alla vigilia della messicana Cemex, che ha perso il 17%, sempre sui timori per l'elevato livello del debito e per la mancanza della ripresa in alcuni mercati chiave per la società come quello della costruzione di case negli Stati Uniti. Quindi comunque Buzzi Unicem ha seguito l'andamento del comparto. Su Impregilo invece vi sono delle novità: il titolo ha guadagnato 2,6% registrando la migliore performance sul paniere principale, e secondo quanto anticipato appunto dal Sole 24 Ore, vi sarebbero novità nell'azionariato, nel senso che Equitassim ha collocato il 5% del capitale presso investitori istituzionali e si fa il nome, appunto secondo indiscrezioni, uno dei potenziali compratori potrebbe essere Salini Costruttori, che da tempo è interessata a entrare nell'azionariato del gruppo, quindi comunque in questo caso il titolo si è mosso su rumor di mercato e indiscrezioni stampa. Ecco, l'effetto Dexia sembra colpire soprattutto Intesa San Paolo, meno 6,20%, perché Monte dei Paschi perde il 5,20%, Unicredit il 4,50%. C'è un nesso? Ma in realtà dal mercato non è emerso nulla del fatto che Intesa San Paolo possa essere la... collegata con... la Popolare di Milano questa mattina andava benino, perché insomma l'ingresso di Bonomi porta capitali dentro... e poi potrebbe salire fino al 10%, no? E poi invece ha chiuso male, Popolare di Milano meno 5,60. Sì, bisogna ricordare che il titolo ha guadagnato molto nelle scorse sedute, appunto in attesa di novità nell'azionariato, vi erano indiscrezioni sull'ingresso di 3 possibili investitori, ora si fa più concreto, quindi appunto un incremento della quota dell'Invest Industria di Bonomi. Il titolo stamattina beneficiava ancora delle notizie appunto relative a novità nell'azionariato, poi vi sono state delle prese di profitto che hanno appunto seguito l'andamento del settore in Europa e in Italia. Fondiaria Sai alla fine non teneva, ma anche lei ha chiuso in negativo, mi sembra di poter dire, se riuscissi anche a trovarla, la commenterei un po' meglio. Eccola qua, meno 3% Fondiaria Sai a 1,67 euro, migliori peggiori in assoluto Gas Plus più 15,60, Full Six più 13,9, RCS Media Group più 10,2%, scusate, e poi De Longhi più 4,30, Antichi Pelletieri più 4,36. Fronte opposto BS meno 14,5, Archimedica meno 14,30, RDB meno 13, Banca Popolare dell'Etruria del Lazio meno 10%, da Fiat anche sulle privilegio Industrial meno 9,38, Monti Ascensori meno 9%. Una battuta al volo su Prysmian, però. Sì, allora Prysmian ha chiuso in calo, oggi ha perso oltre il 4,22, è parecchio, sì. Ha perso oltre il 4%, allora vi sono alcuni studi di esperti che si aspettano, è sempre collegato alla recessione, ai timori di recessione in Europa, comunque si aspettano una lieve recessione anche nel settore in cui opera Prysmian, una crescita più debole nei mercati emergenti, quindi praticamente le stime di utile per azione del settore per i prossimi 2 anni, quindi 2012-2013, sono state tagliate in media tra il 5 e il 10%, quindi in questo è stata coinvolta anche Prysmian. Inoltre, secondo gli esperti, anche il recente calo dei prezzi del rame può introdurre dei rischi per gli utili delle società del settore, quindi il titolo ne ha risentito. Grazie Livia Zancaner dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, il vitalizio, ultimo appello. Abbiamo letto il nome dei 22 parlamentari che non hanno votato, che hanno votato contro il vitalizio. L'abbiamo letti tutti. La proposta dell'Italia dei Valori, gli altri 498, quindi la maggioranza, ma anche una buona parte dell'opposizione, hanno votato per mantenere il vitalizio. Ancora, per quello che riguarda il mercato, volete sapere dell'euro, è a quota 1,33 e sentiamo che cosa ha detto invece il ministro Tremonti da Bruxelles. Da Bruxelles oggi è arrivato un po' di tutto, nel senso che il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet ha intervenuto al Parlamento Europeo, ha detto non ci sono rischi di inflazione a medio termine, l'euro è credibile e solido, il sistema bancario però in Europa è troppo fragile e ci vorrebbe un ministro delle finanze europeo. E poi è intervenuto anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker al termine della riunione dell'Ecofin dei ministri economico-finanziari. Ha detto Juncker: attenzione, le voci di un default, di un fallimento di Atene, della Grecia, sono voci prive di fondamento. We welcomed the bold additional measures recently taken by Greece. Abbiamo accolto con favore le misure coraggiose decise recentemente dalla Grecia, misure che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi in tema di conti pubblici per il 2011 e il 2012. Queste misure sono il segnale del forte impegno della Grecia nel migliorare la strategia fiscale nel medio termine. Chiediamo che queste misure vengano adottate al più presto. Voglio sottolineare che nessuno sostiene il default della Grecia. Faremo di tutto per evitare questa ipotesi. Nessuno, ripeto, sostiene questa eventualità e nemmeno l'uscita della Grecia dalla zona euro. Voglio smentire in modo fermo le voci secondo le quali la Grecia potrebbe essere invitata o decidere di lasciare l'area euro, così come torno a smentire le voci su un default del paese. And I have to firmly deny all rumors concerning any kind of Greek default. E poi il nostro ministro Tremonti, che ha sempre sulla Grecia detto che bisogna fare tutti gli sforzi per evitare il default, il fallimento. L'Italia è forse l'unico paese con un avanzo primario, e ha ragione, cioè entrate e uscite prima di pagare gli interessi sul debito, in questo Tremonti ha ragione. I nostri conti sono sicuri anche con la crescita zero. E poi siamo tornati sul sistema italiano. Ve lo faccio ascoltare però dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Per un paese come il nostro era ed è prioritaria la base dei conti pubblici. Col pareggio di bilancio noi abbiamo la tenuta dei conti pubblici anche in assenza di crescita. E questo è un dato che pure risulta dalle tabelle del fondo. Ovviamente è meglio avere la crescita, però un elemento di sicurezza è un pareggio che ti dà la tenuta anche a crescita zero. Ci sono varianti, allora lei deve chiedere perché negli ultimi giorni lo spread di alcuni paesi è cresciuto enormemente, il delta, il derivato è salito bestialmente, perché alcuni paesi non ne parli mai e invece hanno magari in realtà, varia molto, insomma il caso della Spagna secondo me dipende anche dall'annuncio di elezioni, che di per sé sono una prospettiva di cambiamento e quindi un'apertura di futuro, no? Eccola qui la frase di Tremonti che domani troverete di più sui giornali. La Spagna ha dei CDS e sostanzialmente degli spread di gran lunga più bassi rispetto all'Italia perché ha indetto le elezioni. Questo mi sembra un punto anche politico oltre che economico. L'ultima parte del programma però vorrei dedicarla a cavallo tra i problemi delle banche europee e gli indignados americani che continuano, aumentano migliaia e migliaia nonostante gli arresti. 349-238-6666 per i vostri sms dalla piazza del Cairo a Wall Street. Qui c'è aria di apocalisse. Eccolo che aleggia di nuovo, professor Giulio Sapelli, con la sua stazza, la sua mole. Come la sua stazza e la sua mole, l'imponenza della, della sua stazza e della sua mole. Buonasera professore, buonasera, storia economica onoratissimo alla Statale di Milano. Allora, a parte il fatto che un commento lo vorrei anche su Tremonti che dice le Spagna ha detto che farà elezioni e questo viene visto come una notizia positiva dai mercati, che uno si chiami Zapatero o Berlusconi, poco importa. E poi mi dica cosa sta succedendo negli Stati Uniti, perché allora l'anno scorso 46 milioni di americani, 46 milioni di americani vivevano sotto la soglia di povertà. E nel frattempo i bonus per gli amministratori delegati delle 50 maggiori società americane sono saliti del 30%, praticamente si sono distribuiti 126 milioni di dollari di bonus nel 2010 contro gli 83 del 2009. E venerdì, mentre sotto i manifestanti protestavano con Wall Street, dalla finestra, con molta diciamo classe, si sono affacciati i trader di borsa sorseggiando champagne e prendendo un po' per i fondelli i manifestanti. Allora, da dove le partite? Tremonti o Wall Street? Ma direi che Tremonti non è di rilevante interesse, insomma. Quello che ha detto è talmente, diciamo, discutibile che non... È chiaro invece che elezioni sono un cambiamento non apprezzato dai mercati, quindi diciamo che un ministro del tesoro faccia la politica spicciola di partito mi sembra piuttosto negativo con i chiari di luna. Partiamo invece dall'indignato, che mi sembra più rilevante. Chiaramente quello che lei dice è una cosa molto rilevante, secondo me sta ritornando il senso di giustizia tra le persone, no? Perché c'erano questi enormi 46 milioni di americani che vivevano sotto il livello di disoccupazione, adesso si è messo in moto un movimento sociale molto particolare, perché è un movimento sociale molto meno spontaneo di cui noi pensiamo, come è stato ritratto qui in Italia. Per esempio la FCIO, il sindacato americano, ha un peso non indifferente, i lavoratori hanno avuto un peso rilevante, i sindacati. I lavoratori di New York si sono uniti ai manifestanti, quindi diciamo, e poi c'è invece questo grosso problema che lei ha sottolineato molto giustamente, c'è la disoccupazione endemica strutturale, su cui io è da tempo che attiro l'attenzione. E naturalmente quelli brindano, stiano attenti, perché si tratta di un fenomeno che non si sa quali sbocchi potrà avere. Quindi potrà avere anche degli sbocchi di tipo anarcoide, potrà anche avere degli sbocchi di tipo violento. Quindi è meglio non farsi vedere con le flu di champagne, perché a Maria Antonietta, che disse al popolo, il popolo vuole pane, disse dategli dei croissant, sappiamo com'è finita. Ecco, senza diciamo, sperando che l'apocalisse è dietro l'angolo. Eccoci, una bella toccata, diciamo, scaramantica. Sapelli, però invece torniamo a noi, perché quello che sembra strano è che i manifestanti di Wall Street stanno superando, sulla destra o sulla sinistra, ma stanno superando le posizioni di Barack Obama. E cioè quello che noi continuiamo a dire, che l'incapacità dell'amministrazione Obama di fare riforme che vengano percepite dalla gente come riforme contro i colletti bianchi e a favore di chi il lavoro l'ha perso. Ma su questo non c'è dubbio. Beh, anzitutto perché Obama ci ha messo secoli ad uscire dalla sua constituency, cioè non dimentichiamo che Obama è stato eletto da Wall Street, dagli uomini che adesso brindano a champagne mentre i ragazzi vengono arrestati a colpi di centinaia. Naturalmente adesso penso che si ricordi qual è l'altra sua constituency, i sindacati americani e quindi i movimenti di massa di Main Street, i movimenti di massa tra cui lui poi è nato, perché lui nasce come avvocato del not for profit, avvocato nelle banlieue, usiamo questo termine francese, no? nel settlement, delle periferie, certo. Delle periferie a Chicago. Devo dire che ha fatto un discorso recentemente molto intelligente dal punto di vista della comunicazione, perché si è presentato come un possibile perdente, accogliendo la rabbia degli umili e la pietà anche dei forti. Quindi non ha fatto un discorso arrogante, si rivela un politico più scarso di quello che io pensavo. Ecco, quindi devo dire la verità, è vero, il movimento di massa l'ha superato, ma sempre i movimenti superano le istituzioni, perché sono fatti proprio per questo. Ecco, a proposito di situazioni che superano le istituzioni, vorrei chiudere da dove siamo partiti in questa puntata. Prego. Non facile, devo dire. E mi riferisco al rapporto Confindustria-Fiat. Così, da Obama, facciamo un volo pindare. Torniamo a casa nostra. Anzi, la prima domanda in un minuto, se Pelli mi risponde, perché ce lo chiedono molti, ma perché gli indignados in Spagna, gli indignados in Gran Bretagna, gli indignados in America, da noi non si indigna, c'è chi dice noi siamo i rassegnados? Beh, perché noi abbiamo avuto una sconfitta storica delle classi popolari di terribile, sia i governi di centrosinistra sia i governi di centrodestra hanno fatto arretrare il livello di vita, di dignità sul lavoro del popolo lavoratore a un livello che non ci saremmo mai immaginato. Quindi diciamo i lavoratori hanno avuto una sconfitta storica sul piano dei diritti, dei salari, spaventosi, sono ancora fracassati dalle botte che gli hanno dato. Quindi in questo quadro, secondo lei, Marchionne fa un passo avanti o un passo indietro? No, fa un passo avanti verso il massacro sociale, fa un passo indietro verso il rispetto delle istituzioni e la coesione sociale che in un momento di crisi invece ci vorrebbero. Grazie, torni a volare nei suoi lidi, grazie, certo, grazie. Apocalittici. I suoi lidi apocalittici, grazie. Grazie mio anche caro. A Giulio Sapelli, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. L'America sta perdendo, ma poco, lo 0,70%. Da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.